la notizia pubblicata da tutti i giornali milanesi mercoledì, secondo cui tra le cause del calo di passeggeri sui mezzi pubblici cittadini, con le ovvie ricadute sui bilanci della TM, e c'è ed è anzi prominente il rischio terrorismo, come a dire che i milanesi non andrebbero più in tram o sul metro per paura di incappare in qualche micidiale attentato islamico, questa notizia era così palesemente assurda che l'hanno smentita tutti il giorno dopo. Eppure la fonte era abbastanza affidabile. Era stato il presidente stesso dell'azienda trasporti, tale Bruno Soresina, a scrivere nero su bianco nella relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo del 2003 che il calo degli utili ivi registrato derivava anche dal clima generale del paese in ordine alle minacce terroristiche che hanno ingenerato sicurezza nell'uso di sistemi di trasporto di massa, con conseguente perdita di introiti per la TM di oltre 5 milioni e 5 mila euro nel primo trimestre. E il vice sindaco decorato, pure soltanto bontà sua a non drammatizzare, aveva rincarato la dose osservando che il risultato era immaginabile perché gli allarmi attentati portano la gente a usare meno i mezzi pubblici. Per cui era chiaro che se questo trend dovesse proseguire anche per il bilancio 2004 dovremmo pensare dal punto di vista economico e finanziario a come far fronte alle difficoltà. La notizia, vi dicevo, era così assurda che ha fatto incazzare persino il prefetto, che ha definito l'analisi scorretta e comunque dannosa. E scusate se è poco. Per cui il giorno dopo dall'ATM hanno fatto sapere che no, secondo i conti del 15 aprile il calo è molto inferiore di soli 4 milioni e comunque la percezione di insicurezza esiste sì, ma è la stessa di tutte le grandi città e non solo italiane, e i mezzi pubblici milanesi, va da sé, ogni giorno sono più sicuri del giorno prima. E dire che sarebbe bastato un po' di buonsenso per rendersi conto di come una serie di giornate di sciopero tra dicembre e gennaio, più un'assurda ristrutturazione delle linee di superficie, molte delle quali sono bloccate per lavori da anni, e il fatto che il servizio in genere tenda a fare piuttosto schifo per quello che costa, giustificano a iosa una certa disaffezione dei passeggeri. Un trend positivo in una situazione del genere sarebbe più che sorprendente, incredibile. Vabbè. È naturale che gli amministratori in difficoltà cerchino di giustificarsi come possono e che i vice sindaci, specie quando sono del tipo di decorato, peschino un poco nel torbido, magari per preparare spiritualmente i cittadini elettori al prossimo aumento delle tariffe. Ma è interessante, lo ammetterete, che una bufala del genere sia approdata tranquillamente sulle gazzette, guadagnandosi mica paglia un titolo a 6 colonne in prima pagina del dorso cittadino del Corriere, ribadito da un servizio in seconda, completo di foto di poliziotti vigilanti e box con intervista a un conducente che spiega d'essere ormai abituato a convivere con la paura. È interessante che sia pure per un giorno la stampa cittadina abbia contribuito unanime a diffondere la paura della bomba tra i cittadini costretti a servirsi più o meno volenti della rete rattoppata dei nostri mezzi pubblici. Notizie di questo genere, diciamolo pure, sono di quelle che si autorealizzano. Non nel senso che le dichiarazioni dei Soresina e dei Decorato debbano far venire delle cattive idee a chi non ne ha già per conto suo, ma in quello che annunciare a gran voce che la gente ha paura è un classico modo per diffondere la paura stessa, e chissà quanti che prima affrontavano impavidi le scale mobili delle stazioni del metro, una volta letto il Corriere di mercoledì ci penseranno due volte. Il che, se si considera che mettere paura ai cittadini è appunto una delle strategie del terrorismo, dovrebbe fare un po' pensare. Ma nell'operazione, tutto sommato, non c'è nulla di nuovo. È da mesi, se ci pensate, che molta stampa, Corriere della Sera compreso, cerca di farci paura. Leggendo certi interventi, si ha l'impressione che la bomba, la deflagrazione, la strage siano non tanto previste o temute quanto attese, e in casi estremi addirittura invocate. Che se si lascia che parlare di pericolo islamico e simili baggianate siano solo le sparute pattuglie degli orfani leghisti, Nel concreto, la sensazione che dai nostri confratelli di origine mediorientale non ci si possa aspettare niente di buono sia molto più generalmente pervasivamente diffusa, con tutte le conseguenze del caso sul piano della legislazione, del rispetto dei diritti civili, della gestione dell'ordine pubblico. Perché la lotta al terrorismo naturalmente è una cosa seria e va affrontata con serietà e un po' di sangue freddo. Ma è appunto di questa serietà, di questo sangue freddo, che nel nostro paese si suole fare a meno. In Italia, ne abbiamo già parlato, la minaccia del terrorismo fa troppo comodo a troppi perché si facciano davvero dei passi concreti per liberarcene. Il primo passo concreto ovviamente sarebbe quello di chiamarci fuori dall'occupazione dell'Iraq. La minaccia del terrorismo è servita, come ci insegnano Bush e i suoi zelatori, a trascinarci in guerra prima. E serve adesso, come non si stancano di ripetere inesausti i vari Magdi Malam e simili, a colpire coloro che alla guerra si oppongono. Che poi qualcuno pensi di approfittarne, di servirsene per qualche suo modesto progetto privato, che so, far salire il prezzo dei biglietti del tram, non mi sembra cosa di cui stupirci. Però che vergogna. Don't you stumble.